Pasticceria. Cinquecentocinquantanove strudel. Non vi sgomentate se questo dolce vi pare un intruglio nella sua composizione e se dopo cotto vi sembrerà qualche cosa di brutto come un'enorme sanguisuga o un informe serpentaccio, perché poi al gusto vi piacerà. Mele Renette o mele tenere di buona qualità, grammi 500, farina grammi 250, burro grammi 100, uva di Corinto grammi 85, zucchero in polvere grammi 85, raschiatura di un limone, cannella in polvere 2 o 3 prese. Spegnete la farina con latte caldo, burro, quanto una noce, un uovo e un pizzico di sale per farne una pasta piuttosto soda che lascerete riposare un poco prima di servirvene. Tirate con questa pasta una sfoglia sottile come quella dei taglierini e lasciando gli orli scoperti distendetevi sopra le mele che avrete prima sbucciate, nettate dai torsoli e tagliate a fette sottili. Sul suolo delle mele spargete l'uva, la raschiatura di limone, la cannella, lo zucchero e infine 100 grammi di burro liquefatto, lasciandone un po' indietro per l'uso che sentirete. Ciò fatto, avvolgete la sfoglia sopra se stessa per formarne un rotolo ripieno che adatterete in una teglia di rame già unta col burro, assecondando per necessità la forma rotonda della medesima. Col burro avanzato, ungete tutta la parte esterna del dolce e mandatelo al forno. Avvertite che l'uva di Corinto o sultanina è diversa dall'uva passolina. Questa è piccola e nera, l'altra è il doppio più grossa, di colore castagno chiaro e senza vinacciuoli anch'essa. Il limone raschiatelo con un vetro.